Lupo Nair, Summersburgo. Walking in your shoes. Ed eccoci qua, arrivati all'ultima puntata di questa stagione, seconda stagione di Lupo Nair Summerspurgo, che è la versione estiva di Lupo Nair, che riprenderà giovedì prossimo da Radio R FM 89.1 104 con la voce di Vanni, che è la mia, e quella di Flamini, che ci ha salutato all'inizio, ci saluterà in persona giovedì prossimo da Radio R. Invece qua ci sono solo io nel divano di casa mia e abbiamo ascoltato adesso per iniziare questa dodicesima puntata della seconda stagione, appunto, abbiamo iniziato ascoltando Panic Priest con il brano Little Lost dal suo nuovo album Once Wild. Chi è Panic Priest? È un tipo di Chicago, un dark crooner, si autodefinisce Jack Armando, che insomma che parla delle robe tristi perché è un darkettone fondamentalmente. E niente, invece il metallo dopo milioni di anni sono tornati Dark Angel, leggenda thrash metal californiana dagli Stati Uniti, quindi dal 1991 era l'album precedente Time Does Not Heal, e adesso distanza di minchia 34 anni, sì, Extinction Level Event, questo è il nuovo album. Chiaramente non sono più quelli di una volta, proprio letteralmente qualcuno è pure morto per strada, Luporo Jim Durkin non c'è più, però c'è Eric Meyer, c'è Gene Oglan, c'è Ron Reinhart alla voce. E niente, è uscito questo album tostissimo, naturalmente, si fa quel che si può, chiaramente, però quel che si può è già moltissimo. Infatti ascoltiamo adesso il Circular Firing Squad dei Dark Angel dal loro ultimo album nuovissimo, Extinction Level Event. We'll be right back. Lupo Nero Sammersburgo. Dark pop, si autodefiniscono dark pop, anche se un po', chiaramente un po' di componente industrial ce l'abbiamo, un po' di future pop ce l'abbiamo, un po' di BM ce l'abbiamo. Comunque da Francoforte, Germania, erano i Destroy Me Again, il brano che abbiamo ascoltato era DMA, appunto Destroy Me Again, il brano che dava il nome alla band. Invece di Cobblepongide non abbiamo un brano chiamato Cobblepongide, ma un brano chiamato Flessibilità, tratto dal suo nuovissimo album. Ce l'ho qui, ce l'avevo qua sotto mano. Come si chiama il nuovissimo album? Cosmodrome di Cobblepongide. Ascoltiamo il brano Flessibilità. Chi è Cobblepongide? Ve lo devo dire, ma veramente, vabbè, è uno romano che ripara le biciclette, è estremamente comunista. Niente, a posto, abbiamo detto tutto. Cobblepongide, Flessibilità. We'll be right back. Reidrata o liofilizza a caso i suoi tessuti e trasforma la massa atomica. È un miracolo della genetica. Respira dell'aria cosmica e a giocare su Marte va. Si trasforma in un razzo missile, poi diventa un ipergalattico. Estremofili come simbolo di futura umanità. Prova nostalgia per la scala mobile, senza ammortizzatori, ma con scudi termici. Si imbarca Milan in situazioni molto drastiche, ma senza la barda. Accetta condizioni assai precarie, reindirizza rapido le sue attitudini. E prona guerre, inflazioni e crisi climatiche. Lupo on air, Summer Spurgo. Bye. begins again. E questa pompa magna era quella dei Birthday Massacre, una band di synth rock da Toronto, Canada, che è da poco tornata sulle scene con un album intitolato Pathways, da cui abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo all'album, appunto Pathways. E ora è il momento del brano marchigiano, ce n'abbiamo solo una settimana, a differenza del Lupo Nero stagione autunno-inverno dove ne mettiamo ben due. Abbiamo i Babau. I Babau sono ormai una leggenda di musica tropicale sbagliata. Arrivano da Potenza Picena e dintorni, sono due giovanotti, non più tanto giovanotti, che sono anche i boss di Arte Tetra, un'etichetta insomma che produce robe sbagliate più o meno quanto loro. Dall'album Splitting Hits for the Damaged Heath, sì, perché però erano split con qualcun altro che non mi ricordo, comunque vabbè, che ce frega con quell'altro, noi possiamo parlare solo di marchigiani. Joe Shredder, questo è il brano Babau. Lupo Nair, Summersburgo. Di marca ce l'abbiamo pure qua, perché il split Plague Bomb e Avoid è uscito per Wrong Disc Records, di l'etichetta discografica del nostro socio Vito Raffanale da Fano, giustamente. Ma no, come abbiamo ascoltato i Plague Bomb, che invece sono romani, però sai, si di etichetta fanese, quasi che, vabbè, no, ok. I Plague Bomb fanno, che fanno? Avete sentito che fanno? Un hardcore a bestia, che di più è difficile. Il brano che abbiamo ascoltato era What About Ism and Other Obscenities. E ora, chiaramente, Babbo Ground Zero passa proprio oggi, passerebbe, però siccome in questo momento sono nelle vostre orecchie, sono sul divano di casa mia ieri, ma sono anche a vedere i Portal stasera a Milano, quindi non sto passando a regalare cose, perché Babbo Ground Zero regala cose l'11 settembre, però quest'anno, così, perché si è impegnato, passerà il 7 ottobre. Tuttavia ha già deciso quali sono i dischi da regalare dell'annata, non ve li diciamo chiaramente, però vi dico che ne ho già ascoltato uno nuovo che è già in lizza per l'anno prossimo. Ecco, tutto questo per dirmi che mi ha preso molto bene l'album dei CDSM, che è un gruppo post-punk stralunato, Celebrity Death Slot Machine, questa sigla sarebbe, di questo Freak Out Post-Punk Group, si autodefiniscono così, da Atlanta, Georgia, USA. E niente, da quest'album intitolato Convertible Hearts, Carol Morto Cappottabile, ascoltiamo il brano What Do You Make dei CDSM. Don't give me any money, I do it all for free. Don't give me any money, I gotta take one for the team. What do you make? Don't give me a song or a tune. You could take this one to your tomb. It'll be too late for you soon. What does it pay to be you? Showing up in secondhand shoes. Don't even know it's a ruse, a convoluted excuse. You call it paying your dues. You call it playing the blues. Just call it praying for views. Whatever it takes you to snooze. What do you make? Don't give me any money, I do it all for free. Don't give me any money, I gotta take one for the team. You're making 30k a year, you gotta take one for the team. Of course I do it for the money, I do it all for me. How do you make so much time for yourself? You don't think about anyone else as you gather dust on the shelf. What if this song never sells? Or the next one as well? What will you show for yourself? That can't be good for your health. I've seen the place where you stay. So when I ask what you make, don't care the time that it takes. I wanna know what it pays. What do you make? Don't give me any money, I do it all for free. Don't give me any money, I gotta take one for the team. You're making 50k a year, you gotta take one for the team. Of course I do it for the money, I I do it all for me. Say for argument's sake, you write a song every day, and you get some radio play, and you're booked in every state. Maybe someone gives you that break. Now can you call yourself great? Why would you do it anyways? What do you make? I mean something you can count. I mean a dollar amount. It's time to throw in the towel. You should make six figures by now. What do you make? For the team, you make 100k a year. You gotta take one for the team. Of course, I do it for the money. I do it all for me. Train and sort each other. Have nice big smiles on your face. It's maybe about 30 years from now. After years of arguments, you're gonna have to prove to your grandchildren at least today you are happy. Huh? So thank you, father. Lupo Nero, Sammersburgo. Un altro po' di ignoranza dagli Heavy Lungs, dal secondo album Caviar. Abbiamo ascoltato il brano Get Out. Get Out è loro che so, che fanno un gruppo di noise rock ignorantone da Bristol, UK. E invece i Void Revenant, da dov'è che arrivano? I Void Revenant, chi? I Void Revenant, chi sarebbero? È un gruppo irlandese che fa death metal e si occupa di orrore cosmico, fondamentalmente il nostro cup of tea, noi leopardiani. Dal loro EP di debutto, Celestial Procession, ascoltiamo il brano Abomination. Loro sono i Void Revenant. We'll be right back. dopo tanta ignoranza finalmente un tocco di free free, un po' di musichetta zuccherosa con lo shoegaze indie pop di The Reds, Pinks and Purples, progetto di Glenn Donaldson, che è una povera mammoletta a cui però vogliamo tanto bene. Il suo ultimo album si chiama The Past is a Garden I Never Fed, purello, e il brano che abbiamo ascoltato era My Toxic Friend, puretto. E niente, così si conclude la 12ª e ultima puntata della seconda stagione di Lupo Nero Summer Spurgo. Ci ascoltiamo in questa veste l'anno prossimo, l'estate prossima, ve lo prometto. E invece in veste radiofonica FM, al Lupo Nero, edizione normale, sempre nei limiti della nostra normalità, giovedì prossimo alle 21 su Radio R FM 89.1 oppure su radio.it o le dirette su Facebook, che vediamo, poi non funzionano mai e ce le stroncano sempre perché mettiamo i pezzi di Madonna. Invece adesso mettiamo Broken English Club, che è un tipo, nonostante il nome sia un club, è un tipo tale Oliver Ho, che se fa, che fa techno, industrial, IBM, quella roba lì che va di moda oggi. E dal suo album Songs of Love and Decay vi lasciamo con il brano Death Cult, e a giovedì prossimo in FM Lupo Nero Summer Spurgo. Air Summersburgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.